America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Tokyo, Mario Platero. So the state of the world economy, as you know, it's not great. So a few people are worried about what's going to happen. Lo avete sentito? Olivier Blanchard è il direttore della ricerca del Fondo Monetario Internazionale, ha presentato poche ore fa qua a Tokyo, dove si tiene la riunione annuale del Fondo Monetario Internazionale, il World Economic Outlook e il documento con previsioni statistiche sull'andamento della crescita a livello mondiale. Diciamo subito che le previsioni non sono positive, sono state riviste, corrette al ribasso anche per l'Italia, sono in linea in realtà con le previsioni della banca centrale, però si prevede lo stesso una contrazione anche per il nostro paese, ma non c'è soltanto la contrazione dell'Italia, c'è una situazione economica generalizzata che non funziona, la crisi continua, c'è il rischio di un rallentamento dell'economia asiatica, l'economia americana fatica, dunque insomma il World Economic Outlook, che è il documento che fa partire queste riunioni del fondo, come vi dicevo, non ci dà per ora almeno un quadro rassicurante. Bene, qui a Tokyo devo dire ci sono davvero tutti, c'è il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, c'è il governatore della Banca Centrale Italiana Ignazio Visco, c'è il ministro del Tesoro italiano Vittorio Grilli. Ecco, uno dei punti centrali per il nostro paese è cercare di capire se si riesce finalmente a coagulare un certo interesse degli investitori internazionali perché arrivino, perché vengano a investire nel nostro paese. Vi anticipo che ci sarà domani, mercoledì, un'interessante tavola rotonda con Larry Fink che parlerà proprio di rischio sovrano dei mercati di capitale, della stabilità finanziaria, quali sono le interconnessioni di questi tre aspetti. Larry Fink, perché vi ho citato Larry Fink? Perché è il presidente e l'amministratore delegato di BlackRock, che è il più grosso fondo di gestione al mondo. E dunque l'aspetto interessante è che ci sarà qualcuno che ogni giorno deve prendere delle decisioni se investire o non investire, dove mettere i soldi e dove non metterli, e quindi ascoltare anche cosa dice, che cosa pensa il mondo privato sarà sicuramente molto importante. Ma io non vorrei dilungarmi troppo adesso, visto che siamo appena all'inizio, su quel che succederà qui al Fondo Monetario Internazionale. Vorrei invece fare un passo indietro, tornare alla giornata di ieri, la giornata in cui si è tenuta a New York, non qui a Tokyo, la parata di Columbus Day guidata da Mario Gabelli. Qual è il collegamento, direte voi? Beh, insomma, il collegamento c'è, perché Mario Gabelli è un grande finanziere. Anche lui gestisce un fondo di circa 35 miliardi di dollari, è molto legato all'Italia e dunque è un uomo che ha investito in Italia, ha avuto dei portafogli importanti di investimento in Italia. E vorrei raccontarvi la sua storia, vorrei passare dalla dimensione macro di Tokyo alla dimensione invece molto più intima, personale, di un uomo come Mario Gabelli, è un uomo che rappresenta sotto molti punti di vista la realizzazione stessa del sogno americano, perché è nato nel Bronx da una famiglia modesta, andava a fare il caddy nei campi di golf quando era ragazzino, e proprio facendo il caddy poi decideva di fermarsi un pochettino di più, magari per prendere qualche cosa da bere, stava ad ascoltare cosa avevano da dire i giocatori a cui portava le sacche da golf. Molti di questi giocatori erano dei finanzieri a Wall Street, ed è stato così, ai margini di un lavoretto che faceva per guadagnare qualche cosa, che Mario Gabelli ha cominciato a carpire i primi segreti della finanza. Il resto è storia. Ha cominciato a lavorare a Wall Street come analista, poi ha inventato un suo modello di analisi, poi ha fatto un master alla Columbia University, poi ha aperto la sua Gabelli Asset Management Company, che è diventata una delle più importanti del mondo, ed è un italiano con cui sicuramente noi dovremmo avere a che fare, perché se non stabiliamo un punto di contatto con gli italiani d'America, un punto di contatto forte con quelli che sono i nostri interlocutori diretti, io credo che perderemo qualche cosa. E sottolineo, l'ho già detto in passato, che troppo spesso vedo italiani, anche politici, che vengono in America e non vogliono vedere gli italoamericani perché ritengono che sia in qualche modo diminutivo, perché vogliono vedere gli americani, vogliono vedere i Kennedy, vogliono vedere qualcuno che rappresenti l'americano classico. Ma chi è oggi l'americano classico? Beh, la notizia che vi do da Tokyo è che l'americano classico, nel senso che lo intendiamo nei film magari degli anni 50, 60, anche 70, non esiste più. Ci sono comunità multirazziali, ci sono in continuazione possibilità di fare molto bene, proprio come ha fatto Gabelli. E vediamo i risultati che ha avuto Gabelli, perché se c'è la crisi e se ci sono difficoltà, in realtà il suo fondo, pensate, ha avuto dei ritorni molto importanti, il 28,6% nel 2010 per i clienti istituzionali, è stato uno dei migliori ritorni degli ultimi anni, e il 16,3% medio dalla fondazione nel 1977 ad oggi. Ecco, il messaggio qual è? Il messaggio è che è possibile fare bene anche in un momento di difficoltà. Il messaggio è che occorre lavorare duro. Il messaggio è che nel momento in cui gli italoamericani hanno celebrato se stessi attraverso Cristoforo Colombo, che poi era un figlio dell'Italia, in arrivo dall'Italia, credo che noi stessi dovremmo fare un passo in avanti, cercare di essere più vicini ai nostri cugini americani. L'unione fa la forza, e chissà, quei capitali che fanno difficoltà ad arrivare in Italia proprio perché c'è la crisi, questa crisi di cui si parla qui a Tokyo, chissà, dicevo, potrebbero forse finalmente essere convogliati verso di noi da questi personaggi della finanza, Gabelli, Ken Langone, Joe Perella, Angelo, che ormai rappresentano una parte molto importante della finanza americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Fondo Monetario Internazionale a Tokyo, vi ho parlato però anche dei cugini italoamericani, di Mario Gabelli, dei finanzieri, e dunque la canzone più appropriata è quella di Liza Minnelli con Money Money Money. Si parla di denaro qui a Tokyo nel contesto del Fondo Monetario Internazionale. Liza Minnelli, Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. What? Da Tokyo è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!